6 C. Ascolta e trasforma. Devo svegliarmi presto. Mi devo svegliare presto. Devo vestirmi di nero. Mi devo vestire di nero. Devo scusarmi con un collega. Mi devo scusare con un collega. Devo cambiarmi per andare in piscina. Mi devo cambiare per andare in piscina. Dobbiamo raccontarci molte cose. Ci dobbiamo raccontare molte cose. Dobbiamo specializzarci in bioingegneria. Ci dobbiamo specializzare in bioingegneria. Dobbiamo presentarci al preside. Ci dobbiamo presentare al preside. Dobbiamo impegnarci di più. Ci dobbiamo impegnare di più. Vogliamo fermarci in piazza. Ci vogliamo fermare in piazza. Vogliamo divertirci stasera. Ci vogliamo divertire stasera. Vogliamo metterci comodi. Ci vogliamo mettere comodi. Vogliamo riposarci. Ci vogliamo riposare.